Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Andata la fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! E buongiorno un cazzo a tutti, subito dopo le 7 qui su www.runtimeradio.it, il sito dove andare ad ascoltare la nostra meravigliosa radio. Questa è Buongiorno un cazzo, io sono Simone Pizzi. I nostri altri riferimenti li trovate su Telegram, ad esempio su Telegram trovate la chat dove poter interagire con noi, su telegram.me/dirette runtime. Però insomma, andando su runtimeradio.it, il nostro sito di riferimento, trovate chiaramente tutto quello che vi serve sapere per capire come ascoltarci, come fare le vostre donazioni se volete sostenere il nostro progetto e soprattutto come interagire con noi, anche se credo che anche questa cosa la dovremo un po' più esplicitare. Se avremo tempo un giorno daremo anche delle importanti modifiche anche al sito, cercando insomma di migliorarlo sempre di più. Oggi è un buongiorno un cazzo un po' particolare perché in realtà non so se arriverò fino alle 10, ma soprattutto aspettate il secondo. Scusate, c'avevo uno stannuto in canna che non so se è passato, anzi non era passato, quindi ci ho provato, poi ho detto no, io devo venire quando tu sei col cursore aperto, se no non vale. E vabbè, quindi dicevo che non so se è perché comunque oggi ho un appuntamento importante, dobbiamo andare all'altra parte della regione a salutare una persona che se n'è andata, quindi è un giorno un po' particolare come ogni volta che ci sono queste situazioni. E soprattutto parleremo insomma di quello di cui è stato parlato anche ieri sera in OGM e in altre trasmissioni come il mattino all'ora in podcast di Leo, anche se chiaramente è un po' a modo nostro, continuando a sostenere e aumentando insomma il sostegno delle nostre idee su certe cose. Ma prima di tutto vogliamo soffermarci anche sul fatto che c'è stato questo raduno, un raduno che in teoria da quando era partito avrebbe dovuto esserci una volta ogni anno, poi per due anni chiaramente non c'è stato per ragioni che insomma vi immaginate. Lo scorso anno eravamo anzi diciamo che la scorsa edizione era già pianificata e diciamo che con l'escalation delle varie situazioni, tenendoci tutti in contatto, a un certo punto abbiamo cominciato a dire forse è il caso che non lo facciamo, fino a che ovviamente non lo abbiamo annullato. Invece quest'anno, mantenendo stessa location e più o meno stesso periodo, perché tradizionalmente noi questi raduni di runtime, che ricordo sono raduni interni, quindi sono raduni per noi, per lo staff diciamo così, li facciamo ad ottobre, anche se probabilmente al prossimo raduno qualcosa cambierà, anche perché insomma c'è stato un problema meteorologico diciamo così, che che insomma, nonostante che sono state sempre bellissime giornate, ecco, durante questi tre giorni di raduno invece in realtà il tempo è stato pessimo, anche se noi non abbiamo sentito tanto la differenza perché comunque eravamo dentro intenti a fare altre cose. Comunque diciamo stessa location, stesso periodo, questo appunto è abbastanza chiaro, e compagnia che non dico si modifica, anche se comunque qualcosa cambia sempre, insomma, diciamo così, ma si modifica anche in senso estensivo, si è allargata la partecipazione del nostro team, perché si è allargato anche il nostro team, anche se poi ci sono state due o tre defezioni nell'ultimo momento che magari la prossima volta, forse con un anno di distanza, riescono ad organizzarsi, no? Perché sennò poi sai, sei mesi di distanza non è sufficiente. No, vabbè, poi ci sono sempre i problemi dell'ultimo momento, cose particolari, e quindi alla fine io ci scherzo anche sopra perché è sempre carino. E, location che insomma vi suggerisco, cercate su Google B&B, la casa nel bosco Frontone, e se siete una bella comitiva e non sapete dove andare a Natale o a Capodanno, contattateli, perché loro d'inverno la struttura è virtualmente chiusa, ma se c'è una comitiva ovviamente magari di 6-10 persone che vogliono andare lì, stare lì, insomma divertirsi e stare in un posto bello e sereno e tranquillo, dove stare anche un po' in pace e fare un po', magari in tanti lì è divertente perché comunque puoi fare quello che ti pare, non dai fastidio veramente a nessuno, ecco, insomma contattateli che loro vi apriranno naturalmente le porte. Lo faccio in maniera così del tutto spassionata, perché in realtà è la mia casa quella che è diventata un B&B, anche se non la gestiamo noi, comunque mi fa piacere perché so che tutti i ragazzi di Runtime sono stati benissimo. Quest'anno è stata la prima volta di Walter Sbano, è stata la prima volta di Olivia Tennatura, che poi in realtà sarebbe Girasole, quindi tutti salutiamo Girasole, è stata la prima volta anche per Laura, alla fine ci sono state è stata la prima volta ovviamente anche per Simona Ortolani, anche se Vannini la scorsa edizione era venuto. Quindi insomma è stata veramente una cosa carina, siamo stati insieme, ci siamo divertiti, non è stata una cosa molesta, cioè nonostante comunque diciamo l'alcol ha fatto insomma la sua comparsa, diciamo come protagonista, come personaggio non protagonista, ma poi alla fine comunque gli ha dato insomma il suo contributo importantissimo. Questa è una cosa sicuramente da tenere in considerazione, ma la creatività, come sempre, avremmo potuto fare discorsi programmatici relativi alla radio, invece abbiamo fatto tutt'altro, abbiamo fatto il cinema perché con Alex Raccuglia ancora una volta ci siamo dedicati insomma a fare una cosa che abbiamo solo noi, no? Perché a noi ci piace fare i trailer delle cose che sono sempre le stesse, poi quindi è una saga, ma non è una saga di film o di serie televisive, è una saga di trailer, e questa cosa questa volta secondo me spacca rispetto alla prima volta che ci abbiamo avuto l'idea geniale, ci siamo genuinamente divertiti. Questa volta non soltanto c'è stato il divertimento, ma c'è stata anche insomma la cognizione tecnica, diciamo, di fare una cosa che cresce sempre di più, diventa sempre più importante anche dal punto di vista cinematografico e tecnico, però insomma è divertente, e se qualcuno vi dovesse domandare vabbè, ma sta cosa a che serve, è una cosa alla quale purtroppo nessuno di noi può rispondere, insomma questo è senza dubbio un fattore importante, però è bello comunque il fatto di ritrovare, di fare squadra, che in un progetto come questo è la base, è fondamentale, anche perché come sapete al di là della monetizzazione che facciamo, che è fondamentale e sostiene il progetto autoproducendosi, quindi in questa maniera, ma non quindi non dovendo spendere ulteriori soldi come è sempre stato nel passato, diciamo quello che noi facciamo e il modo in cui lo facciamo è a titolo totalmente gratuito e quindi è legato semplicemente alla passione. La passione è per la cosa che si fa, ma soprattutto probabilmente anche per chi la si fa. E quindi fare squadra, fare gruppo, essere uniti, essere amici, in qualche caso anche di più, essere molto amici, molto fratelli, è una cosa fondamentale. Certo, tutto questo nasce da un core che ha una storia oramai, come abbiamo detto e ripetuto mille volte, di 10 anni di lavoro nel mondo del podcasting, amicizie che nascono da 17 anni di storie, però poi dopo tutto quello che si crea intorno, che gravita intorno e che da gravitazione diventa blocco, quindi diventa pianeta, insomma, e questa è una cosa che a me fa sempre molto piacere, perché comunque dimostra la genuinità e la bontà, insomma, di questo tipo di progetto. Molti mi hanno scritto chiedendomi, perché poi chiaramente era un po' trapelata sta cosa, un po' tra quello che diciamo noi e altro, se ci saranno mai dei raduni aperti ai non membri. Ma in realtà noi ci abbiamo pensato sempre tante volte, poi chiaramente durante il periodo della pandemia ci siamo sempre limitati e abbiamo affrontato, diciamo, questa cosa post lockdown importanti, quindi in questa fase, insomma, di diciamo pace disarmata, di armistizio con il Covid, diciamo, ci siamo concentrati più sul vedere se riusciamo a rincontrarci noi e non abbiamo pensato onestamente al vedere verso l'esterno. Ma questo non significa che non ci piacerebbe, non sarebbe figo farlo, anzi, veramente è una cosa di cui abbiamo parlato tante volte negli anni, però eravamo sempre in quel dubbio del dire sì, ok, magari noi organizziamo, troviamo il posto, magari ci deiamo la cosa e poi magari vengono 3-4 persone, no? Perché poi sapete che il nostro bacino d'utenza è sempre molto relativo e quindi è sempre una cosa un po' particolare. Probabilmente il prossimo raduno, che sarà un raduno che riguarderà sempre noi, magari daremo un posto e una data dove chi vuole venire poi si può aggregare, magari all'ultimo, magari l'ultimo giorno, o magari insomma nel weekend, insomma vediamo. Dai, questa è una cosa che dobbiamo cercare di capire. Capisco che magari alcuni farebbe veramente piacere, ma sicuramente farebbe piacere tantissimo anche a noi, però è sempre un po' complicato e ci troveremo però una soluzione. Ma veniamo al tema della giornata. Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra. Già eran chiare ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni, movimento ma del cazzo come le masturbazioni, fatte a tecnica manuale con la destra nazionale. Li riconoscete adesso. Sì, c'ha ragione Aldo Vimina, l'ufficio, ma la canzone è una delle canzoni più lunghe della storia dell'umanità, è nel Guinness dei primati come canzone interminabile con un loop infinito spazio-temporale nel mondo dei quanti. Beh, vabbè, questa è, insomma, io probabilmente molti di voi non, quelli più giovani, insomma, sicuramente non conoscono Fausto Amodei, anche se c'è un Amodei molto famoso su YouTube, ma è un pazzo è un pazzo che mette matematica, religione e alieni tutto in un contesto scientifico-chimico, insomma, sostanziale. E tanto saluto a tutti, grazie, perché vedo Gianluca Sansò al 9000, Walter Sbano, vedo ovviamente il buon Leo Varghion, Michela, insomma, grazie a tutti, insomma, per la vostra presenza. E ho interrotto la canzone proprio perché sì, in effetti durava tantissimo. Ragazzi, alla fine è un po' come quando si gioca a carte, no? Quando si gioca a carte in una partita tesa, anche se tu già ti sei fatto un'idea di che carte in mano c'ha l'avversario, stai lì, insomma, e poi a un certo punto arriva il momento in cui l'avversario non può nascondere, diciamo, le sue carte e le mette sul mazzo, insomma sul tavolo, quindi scopre le sue carte, no? Escono fuori, insomma, tutti gli altarini, tutte le cose che alla fine noi sapevamo e che dicevamo da 10, forse anche 15 anni, da questa tendente e pericolosa ricerca del sostegno anche dai gruppi più estremisti, chiaramente, che esistono sia da una parte che dall'altra. Ma mentre gli estremisti di destra sono diventati man mano endemici anche all'interno dei propri movimenti, delle proprie realtà politiche, partitiche, provando a diventare loro stessi partiti, ma poi ovviamente capendo che questa cosa forse non era cosa dal punto di vista numerico, ma ciò non significava che non avessero comunque un'importanza, una forza. Magari persone che gravitano all'interno di questi movimenti avrebbero sostenuto le loro idee se esse fossero convogliate in qualcosa di un po' più istituzionalmente riconosciuto, no? Ma poi, al di là di questo, c'è tutto quello che è il gioco forza sociale che fanno certe realtà estremistiche, che fanno comunque parte di un certo tipo di tessuto, magari con la forza, magari anche con le iniziative. E quindi, insomma, c'è questa importanza dei movimenti d'estrema destra che noi definiamo e definiremo e continueremo a farlo fascisti, perché quello sono, insomma, fondamentalmente fanno, ma non perché qualcuno fa la battuta tipo qualche giornalista, sai, di questi qua, insomma, Libero, Il Foglio, sta gente qui, cioè, che per le persone di sinistra tutti quelli che sono più a destra sono fascisti o nazisti. In realtà non è così, perché se noi parliamo di Forza Nuova parliamo di un movimento che fa riferimento in maniera esplicita, dal punto di vista iconografico, dal punto di vista grafico, dal punto di vista simbolico, dal punto di vista ideologico, a quello che è il fascismo. È un richiamo che fanno loro, non è che è un richiamo che fanno gli altri, cioè non è che c'è questa cosa che siamo noi che attribuiamo a certe realtà un certo tipo di peso politico o di forza ideologica. È la verità, è quello che loro stessi sostengono, ovviamente cercando di barcamenarsi, di stare lì tra il lusco e il brusco, no? Quindi ricordiamoci sempre quando era uscito quel fumetto, quando c'era lui, no? Che gli erano andati a tirare la Coca-Cola, no? Cioè, rovinato, cioè proprio questi atteggiamenti, queste forzature che sono rappresentative dal punto di vista comportamentale proprio dello squadrismo fascista, quello storico, tradizionale, che è stato così e non è cambiato, perché loro si riconoscono in questo tipo di modello. E indipendentemente da quello che è successo, il perché è successo, perché ricordatevi, eventualmente vi fosse mai venuto nell'anticamera del cervello che queste persone abbiano un interesse ideale o politico o di ispirazione democratica verso il discorso del Green Pass, verso la vaccinazione e non vaccinazione, a questa gente non frega un cazzo, è semplicemente un elemento da cavalcare in un contesto per andare a creare disordine, destabilizzazione, cercare di portare la gente creando un'esasperazione fittizia, perché basata sulla menzogna, portarla appunto a creare atti e situazioni di destabilizzazione. Perché il portare 10.000 persone in piazza non è il portare 10.000 persone violente, ma è portare gente all'interno di un contesto, dando forza a quel contesto. Poi quelli che faranno il danno, l'atto violento, l'atto destabilizzante, l'atto antisistema, saranno in 50, saranno in 100, però comunque la risonanza di quello che loro fanno è che sono in 10.000, sono andati lì a fare questa cosa qui. E questo è il loro messaggio mediatico da questo punto di vista. Ma questo noi già lo sappiamo, l'abbiamo già capito che il discorso è legato a questo tipo di discorsi, e quindi alla fine insomma ce ne frega fino a un certo punto, l'abbiamo già detto, ci dispiace per la CGIL, sicuramente solidarizziamo, ci dispiace magari per quelli che sono rimasti feriti, che hanno preso le bottigliate in faccia, ci dispiace anche per gli attori hollywoodiani che si sono trovati all'interno di un contesto che probabilmente capiscono fino a un certo punto. Però il problema qui non è tanto questa situazione qua, perché questa situazione qua è figlia di una situazione che va avanti da 15 anni, da 20 anni probabilmente, da quando si è smesso, quindi sdoganando questa cosa, di scandalizzarci di quelli che sono gli atti fascisti. Quindi non gli atti violenti o estremisti, ma fascisti. Ok? Quegli atti che hanno portato l'Italia a 20 anni di dittatura, che hanno portato allo squadrismo, che hanno portato le purghe, che hanno portato le picchiate ai contadini, che hanno portato alle leggi razziali, che hanno portato all'alleanza nazifascista. Questi sono. Di che cazzo stiamo a parlare? Quando diciamo ah, però i movimenti estremisti ci sono pure dall'altra parte, che cazzo stai a dire? Non che non sia vero. E mo ci arriviamo pure a questa cosa qui. Insomma, quindi, alla fine che succede? Succede che questi 20 anni di costante cammino di richiamo, no? Di evocazione, perché l'hanno evocati loro dalle fogne, piano piano. Tutta la politica del centrodestra l'ha tirati fuori, prima Berlusconi, poi Alemanno, e poi tutti gli altri. Sono andati lì, tutti accordi sotto banco, dai, dai, venite, venite, che famo festa, no? Perché li hanno proprio evocati, hanno fatto proprio la summon della merda, e poi li hanno legittimati, li hanno istituzionalizzati. E quindi oggi Casa Pound è un'associazione culturale, Forza Nuova è una realtà sociale. E quando poi alla fine vedi che queste realtà, questo fascismo che non è mai sparito nel nostro paese, e nel momento in cui stava per sparire è il momento in cui noi lo abbiamo rilegittimato, gli abbiamo dato nuova forza, e questo fascismo con nuova forza si è reinserito all'interno dei contesti, nel sottobanco dei partiti, nelle festicciole, negli accordi, negli scambi di voto, nel mi raccomando fai questa legge piuttosto che quest'altra. E poi vi domandate perché movimenti che una volta erano liberali, movimenti di destra liberale, antifascista, oggi sostengono certe realtà, sostengono certe posizioni, certe ideologie. Ve lo domandate, vostra domandate, domandatevelo, perché insomma alla fine vedete che queste sono state due settimane importanti, sono uscite fuori cose importanti, cose che sapevamo, cose che uscivano fuori quando c'erano i giornalisti, quelli veri, quando c'erano quelli che facevano le inchieste vere, che ogni tanto si andavano a domandare ma che succede qua? Giornalisti che hanno anche perso la vita, ragazzi, importante sta cosa, perché non è che stiamo a giocare su questa questione. E quindi hanno scoperto le loro carte, hanno scoperto le loro carte non su quello che è successo l'altro giorno col fatto dell'attacco alla CGIL, del riprendiamoci Roma, questa questione squadrista, ma quando si va in Parlamento e si dice ragazzi Forza Nuova deve essere sciolta e deve essere considerata una realtà fuori legge, e i partiti di centrodestra votano contro. Questo è il problema, quando non si firma un atto come questo, quando non si sostiene un atto come questo. Perché la Meloni può sempre dire ah no, io mo faccio la pulizia all'interno del mio partito, ma all'interno del tuo partito il 20% probabilmente è radicalizzato all'interno di quel tipo di contesto. Salvini dice ma ci sono gli estremisti violenti anche dall'altra parte. Giusto, è vero, individuameli, portami questa gente in piazza a rompere le cose, a menare alla polizia, a entrare dentro le sedi di qualche cosa, arrestali e sciogligli la sua realtà. Ma non fare la demagogia semplicemente perché quella base è un supporto fondamentale dal punto di vista elettorale. Tra l'altro devastando completamente il tuo partito, Salvini, perché il tuo partito ti si sta ribellando contro, perché si sono rotti i coglioni di essere una cosa che non sono mai stati storicamente. Un movimento che ammicca al fascismo, perché la Lega era un movimento liberale federalista antifascista. Quindi prima o poi tutta questa storia ti ritornerà contro anche a te. E quindi è uscita la verità. La verità, ragazzi, è questa. La verità è quella che questi partiti non hanno i coglioni per ammettere che questa situazione così non può andare avanti, che queste realtà devono essere ricontrollate, devono essere gestite, devono essere bloccate e rincastonate all'interno di un contesto di legalità. Non ce la fanno, non ce l'hanno i coglioni, ma non soltanto perché è una questione elettorale, secondo me è una questione di paura, perché qui c'è anche la paura di andare contro qualche cosa che fino all'altro ieri ti ha fatto comodo. E la paura non è di prendere le botte, ma la paura è quella che tutte queste inchieste che stanno uscendo fuori adesso, di questi legami, alla fine puff, improvvisamente usciranno fuori come non so che cosa. Games, and though I never fit with you, I still liked what you do, and so you came, and now I'd rather have love's control. Tonight I'm so alone, behind these shadows I overflow. Sent you away in the midnight snow. Your tears cling to my soul. I won't say I love you, but you still know. And your red hat were flakes of white, but when we faced the day, it turned to rain. Days were filled with you, I still can taste it too. And now this pain, and now I'd rather have love's control. Tonight I'm so alone, behind these shadows I overflow. I sent you away in the midnight snow. Tears cling to my soul. I won't say I love you, but you still know. I sent you away in the midnight snow, in the morning rain, in the midnight snow. I won't say I love you, but you still know. Ragazzi miei, questa è una situazione un po' particolare. Comunque questo è Abscondo, ragazzi, Midnight Show. Belli, sono forti questi. No, che poi tra l'altro, cioè, questa canzone è pure carina, mi piace queste sonorità un po' da ballad. Insomma, diciamo che stiamo facendo grosse scremature. Le scremature stanno aiutando praticamente il nostro database musicale a... sì, lo so, Francesco, immagino stanno appunto migliorando, insomma, il nostro database musicale, perché voi dovete capire che come abbiamo fatto noi, cioè voi fondamentalmente io, sono andato in un sito dove esiste musica Creative Commons, ho scaricato tutte le playlist del mondo, le ho buttate in questo mega database musicale che è sia nel sistema di regia che utilizziamo, insomma, in locale, sia nel sistema di regia automatizzata che è ovviamente sul server remoto, e tutte queste canzoni ovviamente quando non ci sono i programmi vanno in play, insomma, giustamente vanno in esecuzione, e praticamente tra questa roba c'era veramente delle cose indecenti, e siccome che comunque molte tempo della giornata, anche se in background, anche se facendo altro, io comunque ho magari sempre la radio accesa, ogni tanto sentivo le cose un po' così, e allora cut, e piano piano, insomma, alla fine stiamo raggiungendo un livello sicuramente inferiore. Considerate che abbiamo cancellato quasi 700-800 brani, quindi insomma, immaginate quanta roba. E fortunatamente adesso nelle nuove selezioni che ogni tanto escono di musica Creative Commons, invece di buttare tutto nella mischia come abbiamo fatto necessariamente all'inizio, in realtà adesso insomma le ascoltiamo, quindi cerchiamo insomma di mettere quello che è il meglio. Allora, tornando al nostro discorso di questa cosa della piaga fascista, che è una piaga veramente putrescente, che ci schifa tutti quanti e che insozza questo paese da sempre, perché poi evidentemente questo paese c'ha proprio la necessità fisiologica, insomma, di essere fascista. Giustamente Leo mi ha scritto una cosa che adesso vado un attimo a recuperare. Dice: votano contro lo scioglimento per fare la parte dei veri democratici, che difendono ogni idea. Allora, il problema è che il problema è sempre qua. Allora, non è, se tu sei un filosofo e parli di democrazia, astrai la tua posizione dal punto di vista politico e anche collettivo, perché insomma non stai parlando di quella che è la tua comunità, stai parlando della democrazia, e puoi insomma estrinsecare questo percorso ideale, diciamo, in tanti modi, no? Cioè, lo puoi declinare in tanti modi, puoi cercare insomma di estendere il concetto a livello di pensiero al massimo del livello. Il problema è che in un paese, cioè in una realtà, quindi in una comunità, non puoi essere democratico come ti pare a te, devi essere democratico secondo le regole di quella democrazia, e questa democrazia ci dice che tutto ciò che è fascismo o riferimento o richiamo al fascismo è anticostituzionale. E la Costituzione non è un elenco che sta appeso sul frigorifero. La Costituzione è la legge fondamentale che governa una nazione. Ossia, tutte le leggi vanno bene, ma quelle leggi sono prima di ogni altra legge. E da quel catalogo di leggi tu devi continuare a comportarti, a legiferare e a difendere o non difendere la tua democrazia. Cioè, quindi loro possono dire quello che gli pare, possono fare gli americani col quinto emendamento, quello che è, insomma, no? che ogni cosa, ognuno deve essere libero di esprimere le proprie considerazioni, va bene, ma purtroppo in Italia esistono dei vincoli ideali, e che sono quelli legati al fatto che in Italia il fascismo c'è stato, ha avuto un comportamento criminale, ha alterato la realtà delle cose, ha alterato la storia delle cose. Ed è questo interessante, se vi dovesse capitare di andare a Trieste, alla Risiera c'è questo piccolo campo di concentramento, molto piccolo, e la cosa affascinante, tra virgolette chiaramente, è che per terra ci sono i segni di dove c'era la camera a gas, o insomma, vabbè, la camera di sterminio, che era un forno poi fondamentalmente, quindi ci buttavano dentro i morti, i vivi, quello che è, insomma. E al di là del contesto, insomma, del come venivano tenuti ovviamente i prigionieri, che è forse la parte più soffocante, sicuramente la parte più importante, la cosa che è interessante è tutta la documentazione delle falsificazioni statistiche e dei dati che il fascismo aveva praticamente fatto tramite la propria propaganda, disegnando chiaramente un contesto che non esisteva, ma che non esisteva in senso palese. Non è che diceva, vabbè, cioè il PIL ce l'hai all'1% invece che al 2%. Qui stiamo parlando di un paese che si disegnava in un modo, ma che oggettivamente era in un altro modo, ma proprio per fattori ovvi, insomma, no? Perché tu puoi spostare il carro armato da città a città per far vedere al capo straniero che anche in quella città c'è il carro armato nuovo, dice cazzo questi hanno un carro armato ogni città. Mannaggia la puttana. Comunque il fascismo, ragazzi, è il male di sto paese, e se le realtà di centrodestra non tornano a riappropriarsi della propria identità di forze liberali all'interno di un contesto, di un dibattito politico che è fondamentale, non ne usciranno mai, non ne usciranno mai, non avranno mai i coglioni. Infatti le persone che sono uscite fuori in questo momento e che sono emerse anche grazie a queste realtà sono in particolare due, Meloni e Salvini, realtà che sono culturalmente aderenti a quel tipo di situazione, ossia al fascismo. È ancora più ridicolo nei confronti di Salvini, che Salvini non ne fa neanche una questione ideologica, ma proprio un bisogno di emergere, cioè lì è proprio una questione egomaniaca completamente legata a se stesso. Lui ha la necessità, ed è il motivo per cui poi sta crollando, la necessità di essere al centro dell'attenzione dicendo tutto il contrario di tutto, ovviamente non rendendosi conto che questa cosa prima o poi rompe i coglioni inevitabilmente anche alle persone che tutto sommato ti sostengono. E questa cosa gli ha fatto fare un percorso dall'estrema sinistra all'estrema destra, perché comunque Salvini nasce come comunista, e questa è una cosa che mi fa ridere, perché io posso anche cambiare tendenza, posso anche prendere una posizione diversa, posso vedere le cose in un modo diverso perché sono cresciuto, sono invecchiato, ma mi verrebbe da ridere pensare, capito, a dare delle zecche alle persone con le quali ho fatto magari 10-15 anni di percorso politico. Mi viene da ridere, e mi fai schifo Salvini molto più della Meloni, perché almeno la Meloni nel suo essere ha una sua coerenza, poi dice delle cose fuori dalla grazia di Dio, e anche lei sta barcollando ovviamente nell'incoerenza, perché chiaramente non si rende più conto che questa situazione così non è gestibile, non se ne vuole rendere conto, però capito, almeno no? Però vabbè, questo è il mio pensiero, che continuerà ad essere sempre quello, ossia praticamente di una realtà che ha alimentato, poi istituzionalizzato delle realtà che fino all'altro ieri le abbiamo contenute in dei loro micromondi, e che oggi non si vergognano ad esternare la loro anticostituzionalità nella maniera peggiore, poi, no? Perché chiaramente stiamo parlando di atti di violenza, di squadrismo, di cose che non stanno né in cielo né in terra, ragazzi. Su. But I can't seem to leave without her. girl, it's really dangerous for you. I know they're right, but I can't stop myself. And I'm miserable, and I'm invisible, and I am not able to run away, to run away from. Vabbè, questi sono i Trapped con Airborne, grande canzone qui su Runtime Radio. Mi raccomando, dovete sempre pensare al fatto che Runtime Radio è con voi. Bene, come avevo detto, insomma, questa è una puntata un po' più breve del normale. Alla fine, insomma, più o meno ci siamo, quindi alla fine, insomma, mi devo anche un po' sbrigare, ragazzi, mi devo anche un po' sbrigare. Ricordo comunque a tutti che adesso, insomma, dalle 9 in poi inizia la programmazione solida su Runtime Radio. Se durante il giorno non sapete cosa ascoltare, alle 9, alle 11, alle 13, alle 15, alle 17, alle 19 ci sono podcast storici di Runtime Radio, quindi partiamo da Techno Pills, Archeologia Videoludica e Data Nightmare, che si alterna con ovviamente con Snap Architettura Imperfetta, perché prima erano una dietro l'altra, ma adesso, dato che siamo arrivati a puntate che durano 40 minuti l'una, insomma, non vanno un po' fuori del loro blocco orario. E poi dopo, giustamente, anche il buon Walter Sbano si adira, perché ricordatevi che questa sera, quindi martedì, mercoledì e giovedì, alle ore 20 fino alle 20:30 c'è Le Orazioni della Sera, per mandarvi di traverso la cena. Noi lo ascoltiamo sempre volentieri, anche perché alterna una spinofaggine di OGM a sigle di cartoni animati, cose geek nerd, che insomma alla fine so che a voi piacciono sempre tanto, e questo a noi ci fa chiaramente molto molto molto piacere. E detto questo, invece vi lascio un secondo con appunto la pubblicità di quello che succede in Runtime la mattina. Da questa stagione Runtime Radio ti dà il buongiorno praticamente tutte le mattine, e lo farà live. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 7 Leo Vargon ci dà il buongiorno con Il Mattino Loro in podcast. Il martedì, sempre alle 7, Simone Pizzi apre con Buongiorno un cazzo, il programma di riflessioni rabbiose sulla nostra società. Il giovedì alle 7 e il sabato alle 8:30 Michela De Paola ci introduce alla giornata con Disordinati Informati, il programma di approfondimento sugli eventi importanti della settimana. Aprite la giornata con noi, Runtime Radio, sempre più live, sempre più radio. Insomma, vabbè, avete capito che adesso da un po' di tempo, anche ringraziando tantissimo anche Leo Vargon, che ha dato un po' spunto e iniziativa, diciamo, a questa cosa, portando praticamente tutti noi a fare live praticamente costantemente. Vi saluto dicendo che rispetto al periodo di lockdown, dove facevamo almeno un live al giorno, Runtime Radio oggi produce più di 10 ore di live la settimana, e questo più di 10 ore, e questa è una cosa che a me fa molto molto molto piacere, sicuramente appunto stimolato da Il Mattino Loro in podcast, che da una giornata è passata a tre, e quindi conseguentemente ci ha portato a fare anche a noi Book e Disordinati Informati, che c'è il giovedì e il sabato mattina in crossover, anche se anche questo sabato mattina non ci saremo. Poi vi spieghiamo il perché, quindi se qualcuno vuole inserirsi e fare una cosa magari in sostituzione dalle 8:30 alle 9:30 sarebbe molto carino. Detto questo, io insomma, questo è il mio Book di oggi. Ci vediamo la prossima settimana. Vi ricordo questa sera appuntamento alle 20 con Walter Sbano e le orazioni della sera, dai, l'oranze pure è più forte di me. E ragazzi, passate una buona giornata e ricordatevi sempre: buongiorno buongiorno, ma buongiorno un cazzo.